Amareggiato e addolorato, ma fiducioso che nei prossimi mesi verrà fuori l'infondatezza delle accuse, il presidente della regione Antonio Bassolino, che ha deciso di rimanere al suo posto dopo il rinvio a giudizio nell'ambito dell'inchiesta sui rifiuti, dice di avere il dovere di stare in campo per dare una mano ad uscire dall'emergenza. Bassolino sostiene il commissario De Gennaro ed è costantemente in contatto con lui. Sul fronte spazzatura continuano le tensioni attorno alle discariche e alle aree di stoccaggio. Davanti al sito di Marigliano sono state lanciate 5 bombe carta contro il presidio di polizia e prosegue la protesta dei cittadini contro la riapertura della discarica di Taverna del Re a Giugliano, dove nei giorni scorsi una donna si è data fuoco. Intanto la raccolta prosegue a Singhiozzo per il funzionamento ridotto dei CDR di Caivano e Giugliano. Secondo la SIA, l'azienda di igiene ambientale, è a rischio la raccolta anche davanti a mercati, scuole e ospedali. In Campania restano in strada 60.000 tonnellate di immondizia, mentre altre 120.000 sono stipate nei siti provvisori allestiti dal commissariato. Enzo Danna, GR24, Il Sole 24 Ore, Napoli.